Passate a miglior vita, hanno i posti riservati, indulgenza garantita e remissione dei peccati. E San Pietro sulla porta li riceve col sorriso, le canaglie della terra vanno tutte in paradiso. Ecco il presidente con la corte sua lacchè, dal comune delinquente li distingue il savoir-faire. E al buffet di benvenuto dittatori e generali si riempiono la bocca come certi intellettuali. Tutti in paradiso, brava gente, che sotto una buona stella, così in cielo come in terra. E tiene banco il baro con le sue carte truccate, stupratori e trafficanti hanno nuvole private. E anime di scorta sono accolti fra i beati, ora che l'udienza è tolta, tutti assolti e perdonati. Ed i ladri e gli usurai hanno angeli custodi, qualche santo gioca a carte con due onesti truffatori. E banchieri che quassù mangia più che all'altro mondo, e banchetti celestiali mai nessuno paga il conto. Tutti in paradiso, brava gente, tutti col sorriso, di che sotto una buona stella, così in cielo come in terra. Voi che siete laggiù vi chiedete che ci fate all'inferno, cediamo da quassù in compagnia di tutti i santi e del Padre Eterno. Per il pappone, l'assessore, assassino, stupratore, depravato, criminale, consigliere comunale, farabutto, faccendiere, portaborse, cavaliere, e alla fine della canzone ogni reato in prescrizione. Tutti in paradiso, brava gente, che sotto una buona stella, così in cielo come in terra.